Quali sono le novità principali? Well, it's hard to pick just one because we've made almost 15,000 improvements in Firefox 3. È difficile individuarne anche una sola perché abbiamo introdotto o migliorato almeno 15.000 dettagli in Firefox 3. Ma la cosa più importante che la gente vedrà è che il programma è significativamente più veloce. Significantly faster. It's much easier to use, and I'll talk about that in a minute. È più facile da usare, ma di questo ne parleremo tra un minuto. E poi è molto più sicuro di qualsiasi altro browser. And it's much more safe than any other browser out there. Lei ha detto che è più veloce. Cosa significa questo? This means that if I especially, you know, use some of the modern web applications like a Gmail or... Significa che se uso in particolare alcune delle moderne applicazioni web come Gmail, aspetterò meno tempo. If I click on a message in Gmail, ad esempio, cliccando su un messaggio in Gmail, il tempo di caricamento in Firefox 3 è 7 volte più veloce che in Internet Explorer 7. Quindi starò meno tempo ad aspettare che il computer faccia quello che ho richiesto e potrò lavorare di più sul web. Doing the work I want to on the web. Beh, è noto che Firefox è un programma semplice da utilizzare. Dove avete migliorato e come avete fatto a rendere Firefox numero 3, come lei ci ha detto, un programma più semplice da utilizzare? We think is the, you know, the most significant. Pensiamo che l'innovazione più importante da quando Firefox 1 ha reso popolare la navigazione a schede sia la possibilità di personalizzare le ricerche nella cronologia dei siti visitati. Personalized search of your local history. So simply by typing in a few keywords, per far sì che uno trovi velocemente un sito che lo ha interessato. E questo semplicemente scrivendo alcune parole chiave come viaggi o il nome di una città come Milano. The name of a town like Milan. I can find all the sites that I've visited, you know, in the last 3 months. Quindi posso trovare tutti i siti che ho visitato negli ultimi 3 mesi che abbiano queste parole chiave, o nel nome, o nel titolo della pagina, o se le ho salvate tra i preferiti ovunque siano archiviate. Or if I've bookmarked it at anywhere in the bookmark. Lei ci ha parlato anche di sicurezza, questo è un aspetto al quale voi avete prestato particolare attenzione. Quali sono, a vostro giudizio, i maggiori pericoli che possono essere incontrati in rete? There's two main threats on the web. The first is what people call phishing. Ci sono in particolare due minacce sul web. La prima è quella che la gente chiama phishing, una email che simula un messaggio della vostra banca e che tenta di portarti su un sito che sembra quello vero, ma che in realtà serve solo a registrare informazioni personali, user, password, dati bancari o della carta di credito per poi rubarti del denaro. So they can steal it and take money from you. And so since Firefox 2, we've had a built-in protection for these kind of phishing attacks. In Firefox 2 avevamo introdotto un sistema integrato per proteggersi da questo tipo di attacchi. Per bloccare o avvisare se si sta visitando uno di questi siti civetta e avvisare l'utente di non inserire alcuna informazione sensibile. The new threat on the web that I think is particularly scary is what we call malware. La nuova minaccia sul web, che penso sia particolarmente preoccupante, è quello che viene chiamato malware, il che significa che particolari siti internet tentano di installare del software sul nostro PC. And so Firefox 3 adds a malware detector. Firefox 3 ha un rilevatore di malware che, mentre io sto navigando, effettua un confronto in tempo reale con una lista di siti pericolosi e mi avvisa in modo chiaro prima che io vada sul sito. To prevent you from going to it and having it try to install software on your machine.